dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E benvenuti di nuovo all'Onda in Onda. Come ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 vi terremo compagnia in questo fantastico pomeriggio d'agosto. No, non è vero, però era carino. Bello. Ma poi ricorda che le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà, quindi potrebbe anche essere. Ma magari c'è ciao, Brumma, ciao Brumma. Ciao, come state? Ma benissimo, tu? Bene. Io per arrivare qui ho superato una processione. Sì, c'è la processione, Termini Bassa, quindi insomma. Mi sono trovato a chilometri da qui, parcheggiato, non so come. Io per chi conosce Termini Alta, Termini Bassa, io ero tranquillo già a 2 metri, però blocco della polizia, risalgo a terminata e riscendo. Ma tu devi dire per favore sono dello spettacolo, devo pubblicizzare la processione. Sono un artista, devo correre in radio. Va bene, allora oggi cosa avremo nel programma? Avremo tante interviste interessanti. Esatto. Sì, ad esempio abbiamo l'intervista con Adriano, vuoi dire tu il cognome? Adriano Modica, non mi veniva. Che è un cantante siciliano, sì. Che sarà intervista con noi fra pochi minuti, tra l'altro. E poi infatti avremo Babylon Suite come altra intervista, sempre per la nostra rassegna indie rock. E poi dovrebbe venire il presidente del consiglio del comune di Termini Imerese per parlare un po' della nuova nomina degli assessori, della nuova giunta. E infine la nostra rassegna di film brutti con Marco, che ci presenterà oggi un nuovo film che è Skeleton Man. Quindi per la prima volta diciamo qual è il titolo, così magari qualcuno si incuriosisce, sì. Ma poi Marco gli dirà particolarità di questo film. Sì, magari dura 90 minuti, riescono a seguire fino alle 8 e poi sentono la recensione praticamente, quindi ma non ascoltano noi. Ah, questo è pure vero. Vabbè, però possono vederlo col muto, mettete il muto nel film, esatto. Ascoltate noi, è una cosa geniale, bellissimo. Tanto non avrà sti dialoghi importanti. Infatti. Ricordiamo un attimo i contatti: potete trovarci all'indirizzo facebook.com/londainonda con la L, oppure su twitter.com/ondainonda senza la L, oppure ancora potete mandare sms al 380 76 90 204, oppure fate quello che volete. Ascoltateci su radiopanorama.eu con lo streaming. Ma ovviamente, come direbbe il mio buon amico Andrea, non possiamo iniziare se non con la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, piodo, cattiamo, se va, yamai! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani. Benissimo, siamo qui in diretta dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese. È mercoledì 28 novembre e fuori fa freddo. O direbbe Bruma che fa caldo. Ma è strano perché tu sei nella zona dello studio più, come dire, accettabile. No, ma infatti non immagino cosa c'è dall'altro lato, cioè. Ma se c'è vuoi caldo, possiamo far cambio. Non so perché c'è caldo qua dentro. C'è il mio computer che non so se notato che stava suicidando. Sì, il computer ha detto basta, me ne vado, muoio per terra, esatto. Va bene, allora, notizie della settimana. Dovremmo lanciarne qualcuna. Ma vi anticipiamo che più avanti, nel corso della puntata, noi faremo una classifica, la solita classifica che facciamo ormai da 2 settimane. Non è la solita, nel senso che noi proponiamo delle classifiche, non ovviamente la stessa classifica. Esatto, sì. Ma questa sarà una classifica un po' più, diciamo, di attualità, perché come avete sentito, come avete saputo, ci sono state le primarie del centro-sinistra. Ma non ne ha parlato nessuno. Nessuno. Un po' più della laurea di Antonio Panzica. Che vede ora al ballottaggio lo scontro finale tra Bersani e Renzi. Io voterò Bersani. Perché? Perché non mi fido di Renzi, quindi. Tu pensi che ci siano le cammellate? Io ci sono le truppe cammellate di centrodestra, ma non è che lo penso, cioè è così, molta gente di centrodestra. Perché lui che forse avremo Forse lui avremo... Renzi. No, no, sì. Ah, Berlusconi. No, no, proprio avremo sia Berlusconi che Renzi. Addirittura. Diranno la loro appunto su queste primarie e sul ballottaggio. Quindi attenzione, rimanete con noi. Però qual è il fatto? Che proprio per questo si vuole evitare, no? Che al secondo turno le truppe cammellate o no, comunque chi vuole elettore di centrodestra e vuole votare non ha votato per il primo turno, voti al secondo turno Renzi. E Bersani non vuole, anche perché, diciamolo, ci sono state le regole, sono state scritte prima e poi... giustamente Bersani dice non possono cambiarsi durante il gioco, cioè le regole del gioco, certo, le stabilisci prima e basta, poi non le cambi in corsa. A meno che non ti chiami Silvio, questo è a meno ovvio. Che non ti chiami Silvio, questa è una vecchia storia. Allora, per votare al secondo turno può farlo soltanto chi presenta una giustificazione valida del perché non ha potuto registrarsi al primo turno. Ad esempio io non mi sono potuto registrare. Bene, quindi dovrei presentare una giustificazione valida. Per chi non avesse idea di quale giustificazione presentare, noi vi faremo una classifica con i motivi migliori secondo noi per i quali può essere accettata una vostra giustificazione per votare al secondo turno. Ma ne saprete sicuramente di più. Direi che possiamo lanciarli, sì, diciamo, a scaglioni, magari 3-3 fino ad arrivare al podio, sì. E quindi insomma, ma stiamo parlando da troppo tempo, mi sa che la gente vuole un po' di sana musica. Esatto. Allora, direi che è il momento di spararci. Dillo tu, Andrea. I Black Keys con Your Touch. Eccoci sempre qui in diretta. Allora, ve l'avevamo annunciato poco prima ed è il momento già di ospitare il primo degli intervistati della puntata di oggi. Quindi diamo il benvenuto al nostro conterraneo siculo, Adriano Modica. Ciao Adriano. Ciao mattacchioni. Quindi già ci hai sgamato, cioè ci è voluto poco per capire che siamo dei mattacchioni. Allora, intanto come stai? Come stai Adriano? Tutto bene? Bene, informissimo. Benissimo. Allora, noi tutto bene, sì, siamo anche contenti di intervistarti perché il disco è uscito proprio ieri, correggimi se sbaglio. Yes. E quindi siamo proprio i primi, cavalchiamo l'onda, dico, diamo... Esatto, la prima intervista della serie. Fantastico, okay. Qui dovrebbe scattare l'applausone. Qua, dico, quindi, mi sa che sta per scattare l'applausone, o sbaglio? Esatto, sì. Il nostro regista è sempre in ritardo. Quanti siamo? Ma siamo tanti. Siamo veramente tanti, oggi siamo addirittura 69, nessun riferimento ovviamente. O se preferisci 77, che è il tuo anno di nascita, per esempio, per cominciare. Esatto. Ah, il tuo, perfetto. Quello allora, ufficiale. Poi, quello ufficiale, sì, perché ho letto che tu sei nato diverse volte, le altre non te le ricordi bene, quindi teniamo il 77. Ok, dai, per capirci, va? Esatto. Allora, senti, parlaci un po' di questo nuovo lavoro, dal titolo a come l'hai sviluppato, come è nato il desiderio dentro di te di creare questo nuovo lavoro appena uscito. Dunque, il titolo, che è La Sedia, rappresenta, diciamo, il momento della riflessione, fa parte, ecco, collochiamolo all'interno della trilogia. È il terzo ed ultimo della trilogia dei materiali, che è stato preceduto da Nanna, che era l'album di Stoffa, Il Fantasma Paura, l'album di Pietra, questi due dischi sono usciti per Trova Robato, e poi l'album di Legno, che è il momento di riconciliazione. Praticamente i tre materiali simboleggiano le tre fasi della vita, che sono l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta. Ah, ecco, quindi la metafora è con le fasi della vita, perfetto. Sì, i momenti, insomma, in cui sei bello tranquillo per i fatti tuoi, rilassato, la stoffa, sei protetti, guardi i cartoni animati. Esatto, sì, sei lì nella bambagia, nessuno ti rompe le scatole. L'adolescenza in cui il corpo ti cresce a dismisura e non riesci a capire perché sbatti dappertutto, sono tutti con questa faccia strana, e poi l'età adulta, e poi dice, vabbè, aspetta un attimo, allora, che ho fatto nel frattempo, mi guardo indietro, capisco chi sono gli altri, e te la prendi un po' più un relax, con delle cose un po' più pesanti. E tu in quale fase della vita ti senti, nonostante, dico, lasciando stare una delle età in cui ti ricordi di essere nato, uno degli anni in cui sei nato, il 77? Sì. No, mi trovo all'ennesima rinascita in questo periodo della mia vita. Sono abbastanza, ho 35 anni, quindi posso definire in una seconda, terza età. Qualcuno diceva nel mezzo del cammino di nostra vita, ma l'abbiamo superato quei tempi in cui era il mezzo del cammino. Qua ancora c'è almeno una decina di vite davanti. Davanti, di lato, dappertutto. Di dietro, no, di dietro spera no, dico Andrea, no, non di so, dietro, no, di dietro speriamo proprio di... Ci lasciamo tutto di dietro. Sì, insomma, sì, esatto, lasciamo avanti. Tutto alle spalle. Senti, io intanto, se i miei co-conduttori, il regista, non hanno letto, inviterei te a dire come racconti la tua biografia, veramente geniale, sul tuo sito ufficiale, come è stato il tuo avvicinamento alla musica, qual è stata la proposta di tuo padre? No, praticamente un giorno mio padre, anzi no, ecco, è successo questo, me lo ricordo perfettamente, ero in Piazza Duomo a Reggio Calabria, dove comunque siamo cresciuti mio fratello, perché la mia famiglia, insomma, è una storia lunga. Allora mi si avvicina mia mamma e mi fa, senti, tuo padre ti vuole fare un regalo. Ha detto, bene, cosa preferisci, il fucile o la chitarra? Ho detto io, ma io voglio il fucile. Però poi ho scelto la chitarra, perché insomma dovevi fare contenta anche la mamma, che se avessi scelto il fucile mi avrebbe preso a legnare. Però tu eri portato un po' più per il fucile inizialmente, quando ti è arrivata la proposta. Ma sì, da 6 anni tu vuoi sparare come John Wayne e come tutti i ragazzi. Quindi immagino che vedere James Bond che spara col fucile a chitarra è una cosa casantissima. Sì, la chitarra è più da cameretta. Sì, poi infatti alla fine non ho sparato a nessuno, sono rimasto in cameretta. Sei rimasto lì a suonare. Però un giorno mi comprerò il fucile. Fantastico. Allora, no, poi quando te lo compri ti intervistiamo dopo il primo omicidio. Ok. Senti, invece l'idea di quei suoni registrati particolari, della piccola orchestra, adesso non ricordo esattamente il nome, puoi spiegarcelo tu, accompagnati da video molto particolari, sempre nell'home page del tuo sito. Sì. La piccola orchestra che ho in testa. Ecco, quindi tutti i suoni immaginati. Da quando ero piccolo che ascoltavo la musica, mi immaginavo questa musica riprodotta con gli oggetti che ci sono in casa, pentole e cose varie. Era un sogno che avevo da quando ero piccolo. Poi soprattutto ho saputo che i Pink Floyd in un certo periodo avevano intrapreso un'odissea di progetto del genere, però poi l'hanno abbandonato perché con i mezzi dell'epoca era una cosa impossibile. E allora, diciamo che ho voluto rivendicare Pink Floyd, che poverini hanno fatto una fine da sfigata, ho detto vabbè, vi ridarò io dignità e ho detto ok, faccio questa cosa. Ottima idea davvero. Adriano, una domanda che non si dovrebbe fare, perché è un po' come chiedere al papà, alla mamma, qual è il figlio preferito. C'è una canzone però, che è un pezzo di quest'album che ti è più a cuore, che magari è nato in un momento pazzesco, che non ti aspettavi, non so, qualcosa a cui sei legato per un motivo X, che non vuol dire la più bella, quella che ritieni la più bella, perché poi penso che tutte le opere siano belle, uscite dalla propria anima, però quella che ti, insomma, c'è qualcosa in più. Guardi, infatti ti confermo che comunque il disco è stato un parto unico, nel senso che è una cosa a cui sto lavorando da anni, quindi non saprei però prendo come spunto anche questa cosa. Oggi l'ufficio stampa mi ha comunicato la recensione di Blow Up, sì, dove erano rimasti colpiti da un pezzo che si chiama Il bastone alla scala, in cui diciamo che ci sono delle cose molto mie personali che... a cui tieni particolarmente. Mi sento di rispondere Il bastone alla scala. Il bastone alla scala. Adriano, purtroppo il tempo è quello che è. Noi non ascoltiamo Il bastone alla scala, ma ascoltiamo un pezzo che a noi è piaciuto del tuo ultimo album. Ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato qui con noi a L'Onda in Onda su Radio Panorama. E se vorrei venirci a trovare, con piacere. E adesso ci ascoltiamo Almeno il cielo è sempre uguale. Grazie Adriano. Bene, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Bene, allora rientriamo dopo questa intervista ad Adriano Modica, a cui auguriamo tanti auguri, tanti in bocca al lupo per il certo suo percorso. Augurare tanti auguri. Tanti auguri, cioè... li auguri, perché lui farà tanti compleanni, quindi io... sono tanti auguri che verranno da tante persone, no? Sì, è come dire, non lo so, non riesco a trovare una metafora, qualcosa di così bello. Ti auguro tanti auguri. Ti auguro tanti auguri. A te viene in mente qualcosa, Brumma? No, a nessuno. Se qualcuno viene in mente qualcosa, ce lo faccia sapere. Senti, ho bisogno di quella canzoncina che a noi piace tanto, ma proprio 3 secondi, un estratto. Ma di che? La patata. Ma perché? No. Patata. Evviva chi l'ha creata. È sempre stata e sarà. insomma. Va bene, allora torniamo alle nostre notizie, ricordando che state con noi perché per domenica prossima chi non ha votato alle primarie al primo turno, daremo le scuse migliori per poter votare al secondo turno. Ovviamente, quindi, non vendetevele, perché se poi le usate in tanti cominceranno a sospettare che le avete pescate. Una classifica di varie, di varie scuse, non per forza 10, insomma, quelle che abbiamo ritenuto le migliori. Noi ne abbiamo 13, quindi fate voi. Vediamo come riusciamo come riusciamo a inserire. Allora, iniziamo con le nostre notizie più strane del mondo, ma con annesso video in questa qui. No, però non possiamo mostrare il video. Non possiamo mostrarvelo, ma insomma, andatelo a cercare perché è facile. L'anaconda vomita una mucca, il video fa il giro del web. Già, di per sé la notizia andrebbe chiusa io qui. Mi chiedo, e mi è andato a cercare il video. Ma tu tutta la settimana lavori per cercarle, sì, immagino, perché non puoi trovarle così, io non ne so mai nulla. Anche le anaconde fanno indigestione. Un video di in rete mostra una grande anaconda vomitare quello che probabilmente è stato un pasto eccessivo. Una mucca con la quale qualche uomo intrattiene rapporti anche molto intimi. Ma questa è un'altra notizia, però. Come abbiamo già raccontato. Il video è diventato un cult sul web. Tanto come? Sei partito dalla Michelin. Sei partito come Michelino. Quando? Oh, poco fa. Aspetta, ma tu lo sai che io ho visto Michelino qui vicino? Dopo verrà Michelino. No, ma io ho detto solo che l'ho visto e vorrebbe entrare con le sue caramelle per offrircele. Verrà. Ah, io ho visto infatti le caramelle. Il video comunque è diventato un cult sul web, tanto che in soli 2 giorni ha già ottenuto 60.000 visite. Le immagini mostrano l'anaconda contorcersi e vomitare l'animale non ancora digerito dentro le acque di una foresta brasiliana. Andate a cercare il video, è veramente orrendo. No, ovviamente è morta. Era morta? Sì, era morta. Io pensavo di no. Sai cosa mi fa pensare? Avete mai letto, se mi dite di no, io ovviamente mi alzo subito e tolgo le cuffie, Il Piccolo Principe? No. Sì. Guarda, allora facciamo una cosa, resto con una chiappa seduta e l'altra è già fuori. Ti ricordi il boa che mangiava l'elefante rappresentato dal bambino? Sì, Brumma dice sì, in realtà non ha mai letto nulla, vabbè. Ovviamente non l'ha mai letto. Senti, che spariamo le prime 3 scuse da dare alle elezioni o aspettiamo un altro pezzo? No, guarda, io direi di aspettare, ci sentiamo subito un altro pezzo e poi ritorniamo con le nostre migliori scuse per votare al ballottaggio alle primarie del centro-sinistra. Allora, andiamo su un pezzo molto più culturale, Pitbull featuring Shakira in Get It Started. I see the 7 Sense. Now, baby, let's get started for life. December night, like the 4th of July. Vanilla sky, thriller in Manila. Knocking them out like Pacquiao. No, I leave no Frazier. But from there, I was off to Malaysia. 2 passports, 3 cities, 2 countries, 1 day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, dolly. Every time I look into your eyes, I feel like I could stare in them for a lifetime. We can get started for love. We can get started for love. We can get started. You know it feels right. I believed and became it, yeah. Now I'm here to claim it, yeah. I hustle anything, you name it. I went from eviction to food stamps, to bagging work, wet and damp, to a passport flooded with stamps. Now it's Voli everywhere I land. 2 passports, 3 cities, 2 countries, 1 day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, darling. Cause if it feels right, we shouldn't waste any more time. Let's get it started. Don't think about it. You know I'm gonna make it all right. Let's go. Have it. start what you can't finish. Yes, right. Stai ascoltando L'Onda in Onda. E dopo questo grande pezzo degli ACDC, Thunderstruck, siamo sempre qui, sono le 19.09, o per chi ci sta seguendo in replica sono le... Mezzanotte 39. Ricordiamo appunto che saremo in replica dalla mezzanotte alle 2, come ogni mercoledì, insomma, andiamo in replica notturna. Per chi si è perso la puntata, per chi vuole farsi del male e riascoltarla, allora può accendere la radio a mezzanotte e ci ascolterà. Chi invece ci sta già ascoltando in replica, niente, mercoledì prossimo si colleghi all'orario giusto e ci ascolterà in diretta. Va bene, allora dobbiamo dare la nostra classifica. Iniziamo, diciamo, con gli ultimi posti della nostra classifica per chi vuole andare a votare alle primarie al secondo turno, perché ricordiamo che chi non si è registrato al primo turno non potrà votare al secondo turno, che vede il ballottaggio tra Bersani e Renzi, a meno che non presenti una giustificazione valida. E noi abbiamo dato daremo ora in classifica dei motivi per i quali può essere valida la giustificazione. Vuoi iniziare tu, Antonio, con i primi motivi? Sì, direi che partiamo dal tredicesimo posto, perché ne abbiamo circa 13, poi magari riarrangeremo. C'era la partita. E quindi, insomma, c'era la partita domenica, effettivamente c'era la partita della Milan-Juventus. Quindi ve la siete persa, anche se in realtà la partita era dopo la chiusura dei seggi, però vabbè. Andrea sa pure che era un posticipo, cioè io sono senza parole, mamma mia. Lui non sa neanche chi è un guardialine, cos'è un fuorigioco, però sa che la partita Milan-Juve era esatto, dopo. Però insomma, infatti al tredicesimo posto c'era la partita, non possiamo lamentarci, c'è quella. Al dodicesimo posto abbiamo "Io ho un diploma di scuola secondaria, pensavo che le primarie non fossero affar mio". Esatto. Potrebbe essere anche questo un... giustamente, uno che ha il diploma di scuola secondaria delle primarie, insomma. Esatto. Se ne vuoi dire tu quella all'undicesimo posto? Sì, ho dimenticato di non avere la cittadinanza italiana. Giustamente, è una cosa che può capitare quando ci si presentano alle primarie. Ma tu sei cittadino italiano? Non mi ricordo. Vado a controllare a casa e torno. Vado subito, però se ti sente parlare non capisci. Allora. Non capisco. E niente, e quindi è un motivo valido per il quale potete ottenere il diritto ad accedere al secondo turno. E poi al decimo posto ero a casa a pettinare le bambole, che è un motivo sempre valido, un leitmotiv tra l'altro del buon Bersani, quindi insomma viene anche utilizzato come scusotto, esatto, o come giustificazione, come e quindi potete avere sicuramente l'accesso al secondo turno, ma per le scuse più forti dovete aspettare il corso della puntata per arrivare fino in classifica 1 e vedere qual è il motivo maggiore, il primo posto, esatto, quello che dovete utilizzare. Va bene, adesso ci spariamo subito un altro pezzo, sono gli Sister Sisters con Baby Come Home. Yeah. siamo tornati ancora qui in diretta, sempre con l'Onda in Onda. Ricordiamo un attimo i contatti: facebook.com/l'onda in onda, twitter.com/onda in onda, sms al 380 7690 204. Salutiamo Peppe che è venuto a trovarci. Ciao Peppe, ci sta salutando. Invece con noi Giorgio per, credo, il terzo mercoledì. Peppino Chicapri, preciso. Peppino Chicapri, dice. Chicapri. Esatto. E qui abbiamo Giorgio che è venuto a trovarci per il terzo mercoledì di fila. Ciao Giorgio. Salve a tutti. Ciao Giorgio, allora va bene. Continuiamo col nostro programma perché oggi, come insomma gli altri, le altre giornate con cui vi rallegriamo ogni mercoledì, cioè ogni mercoledì e basta, non c'erano, cioè, le altre come giornate. Come le altre giornate perché... in cui vi rallegriamo ogni mercoledì. Cioè solo ogni mercoledì. Guarda che qui stiamo spiegando il teatro dell'assurdo, tipo aspettando Godot, cioè una cosa pazzesca. No, perché volevo un po' fare il giurato della situazione. Uno piacere, il grande piacere ospite di avere ospite. Ma se tu mi evochi io devo passare per forza. Dove siamo? Ciao Bruma, tu ti ho visto quando eri piccolo, in fascia. In fascia, in fascia. Sulla fascia. Che fascia caro Luca? E la fascia destra, tu come ti chiami? Ma io sono Andrea e come ma vedi siete certo... veramente bravissimi, mi siete piaciuti fin da quando eravate bambini. Ma ti piacciono i miei virtuosismi? Assolutamente sì, io sono un fan dei virtuosini. Esatto Luca, va bene. Tu ti chiami Andrea Masmario? Esatto, esatto. L'altro se la sbaglia Alessandro Montevergini. Esatto Luca, sì. È proprio lui. No, io volevo dire che oltre a Luca, insomma, che passa qui ogni tanto a trovarci, con noi c'è un ospite che ci segue come ogni giorno in cui vi teniamo compagnia ogni mercoledì, come... che persa. È sempre... No, me la sono persa. La sei persa che sei qui, sì, no, sì, era sì. Un altro virtuosismo. È un ex medico nutrizionista che viaggia ormai in tutta Italia perché insomma è stato cacciato all'ordine dei medici, radiato, perché lui ha ucciso involontariamente un malato di ipertensione con una ricetta all'anduia calabrese. Io lo vado, allora... intanto, lo vado a chiamare intanto. Sì, vai vai Antonio, perché sennò non sento più la tua voce, si preoccupano. E quindi da allora lui, per lavare l'onta di questa disgrazia, gira le radio d'Italia per far vedere quanto è buona la cucina calabrese e quindi dalle sue ricette per la gente a casa. Quindi mi raccomando, cari ascoltatori, prendete carta e penna o registrate la puntata, perché insomma le sue ricette sono abbastanza difficili da seguire e soprattutto molto complicate per ingredienti, ma non possiamo annunciarlo se non con la sua musica. E diamo il benvenuto quindi a Tony Scopelliti. Buonasera, buonasera Tony Scopelliti, come stiamo? Ma che? Tony Scopelliti, che è successo? Ho portato un piatto nuovo, l'ho inventato io. Altro applauso, disgraziate. Ma perché? Caro... Un applauso, certo. Ma... Caro Tony. No, il delirio. Il oggi. Delirio, caro Tony, che è successo? No, perché... Tonino, caro Tony è nato. No, caro Tony. Ah, pensavo, sì, un sacco di lei caro... pensava. Io pensavo a Tonino, caro Tony. Senta, ma lei che ne pensa di ogni giorno in cui vi teniamo compagnia ogni mercoledì, quindi mercoledì? Io vorrei chiamare un libro con questa frase perché veramente ti riempie il cuore. Per aprire l'apertura evocativa mentale di un libro. Sì, mi ricorda la Calabria, terra aperta, come il nostro accento. Come ogni regione in cui... Senti che è aperto? Sì, e non mi sputi, come ogni regione in cui noi siamo in Calabria, quindi come in Calabria. Certo, quindi in Calabria come la Calabria. Esatto. Buonasera a tutti. Buonasera. Senta, Tony Scopelliti, che ricetta ci porta oggi? Intanto vi porto il mio piccolo Michelino. Aspetti un attimo. No, sì, addirittura sì, anche oggi questo bambino rompicazzo. Per chi non lo conoscesse è mio nipote. Vieni Michelino, vieni, vieni. Eccolo, come stai Michelino? Ah, ti fanno male le labbra? Perché no. Ah, sono molli, forse. No. Ah, si saranno bruciate cupe per un gino. Senti, oggi chi può mangiare? No, devi proprio chiamare il piatto. No. Ecco, il marro. Presentiamo il marro così. Vattene a fare in culo, Michelino. Sì, torna. Marro, puoi andare, basta, vai dalla mamma. Allora, un bambino, se lo faccio avvicinare un'altra volta al microfono, veramente mi incazzo come una. Lo infileremo nel microonde. Esatto, il microfono. Bravo, caro Tony. Vedo che lei è, insomma, d'accordo con me. Quindi, qual è questo piatto che porta il marro? Il marro, quindi un nome facile. Per la prima volta lei non mi deve interrompere per farlo ripetere perché l'ha capito all'istante. Il marro, ma cos'è il marro? È il un primo, un secondo? Cos'è? Ma è tutto. È tutto. Il marro è come il pan. Sai il pan? No, è il come pan. Ogni giorno in cui vi teniamo compagnia. Esatto, è l'eterno ritorno, è Parmenide, è tutto, ma il marro. Addirittura, che cultura, caro Tony. Quando le chiedono come sta, le può dire marro. Marro. Tanto è veramente utilizzabile in tutte le occasioni. Senta, ma gli ingredienti del marro, quali allora, sono? Ovviamente per tre persone a dieta, come... No, niente. Oi, lo sentite che è partito con oi oi. Oi oi. Mira il dito. Il primero, cioè il primo argo, scusi, perché mira il dito mi fece sballare. Allora, Pietri Cristiani, ovviamente a dieta, 8 kg di pancetta. 8 kg di pancetta. Assolutamente sì. Mi raccomando, carta e penna, 8 kg di pancetta. Tre sticchi d'aglio. No. Sbaglio sempre se c'è a T o a P. No, c'è la P. Allora, c'è la P. Allora, tre sticchi d'aglio. Ah, no, è la seconda lettera. Tre spicchi d'aglio. Tre spicchi d'aglio. Sì. Tre spicchi d'aglio è 8 kg di pancetta. Quindi, insomma, l'aglio deve sentire un soffrittino. Esatto. Poi. Sì. Budolain the capretto. Budolain the capretto. No, scusi, è budellina. Avevo letto budellina. No, è budellina. E mi era venuta la voce inglese. Poi ci vanno 150 kg di pecorina. Come? Pecorina. No, sta sbagliando anche come hanno fatto i giornali inglesi. 150 kg di pecorino, sì. Esatto, è un formaggio. Pensavo a Doggy Style. Comunque, poi ci vuole almeno una vasca di prezzemolo. Sì. Un pezzo di rete di capretto. Cos'è un pezzo di rete di capretto? Le spiego subito. Sai che c'è la Wind, la Tre, la Vodafone, le Totechisti? Sì. C'è una nuova rete. Ah, la rete capretto. Ah, la rete telefonica. La rete telefonica capretto. Perché praticamente le onde elettromagnetiche fanno cuocere meglio il marro. Non lo sapevo. Quindi un po' di rete, voi mettete un cicapiglio o capretto e andate. Quindi una ricetta bisogna farla soltanto in certi punti dell'Italia. Assolutamente non può essere fatta, che dove non prende la rete capretto. Fra Tropea e Catanzaro. Ma come? Allora perché la dà qui in Sicilia? Perché ovviamente ci sono 1000 biglietti gratuiti d'aereo per andare a Tropea in Quindi settimana. Per chi scrive bene la ricetta e poi la fa, esatto, manda le foto, esatto. E regaleremo un biglietto per la Calabria. Ho capito. E quando lo regalerete? Domani. Ogni giorno in cui andiamo in onda. Mercoledì e un mercoledì. Esatto. E poi vedo quindi che la diverte sta cazzata. Sì, un sacco. Poi andiamo a mettere sale e pepe. Sì. E basta, cioè 5 kg di fegato e polmone di capretto, che si sommano agli 8 kg. Che vanno strappati a morse. Badate bene, un fegato va strappato a morse. Sputando tutto. Sì. 4 kg di olio extravergine d'oliva. Come 4 kg? Ricordiamo che l'olio è l'unica cosa rimasta extravergine nel mondo. Sì, questa battuta. 800 grammi di provola. E basta. Arrotolate la reticella e scottatela per un minuto in acqua bollente. Poi sgocciolatela e stendetela su un telo mare, possibilmente. Perché la sabbia dà quel sapore un po', come dire, salato. Quindi sempre della Tropea, però a mare. A mare, asciugatela, poi tagliatela, poi guardatela. Inquadrate di 10 cm di lato. Mondate, universate il fegato e il polmone. Mangiateci il cuore. E tagliatela a pezzetti senza rancore. E poi distribuite in ogni quadro in rete una patta in venti preparata con aglio e prezzemolo tritati. Richiudete formando una specie di pacchettina e chiudete con un pezzetto di modellino precedente. Salutiamo Tony Scopelliti. Io mi auguro che avrebbe descritto bene la ricetta. E allora ci sentiamo subito dopo col prossimo pezzo. Che vi dedichiamo a tutti quanti i Trailer Park Boys, The Big Dirty, I Fought the Law. dopo esserci sparata questa I Found Low. I Found Low, che in realtà è, no, sai di chi è? Questa è una cover. Sì, certo che lo so. Di chi è? Dei Linkin Park. Perché se qui sono i Trailer Park. Certo, certo, certo. Sento in sottofondo un gran sottofondo. Non so, gli altri stanno apprezzando. È bello ogni tanto. All a lot of love. Abbiamo All a lot of love. Bello su tutto. Sì, siamo una radio che spacca, una radio di grandi successi. Sì, mi fa segno il regista che gli viene voglia di andare in bagno e noi lo accontentiamo subito. Allora, allora continuiamo con la nostra classifica sui motivi, sulle giustificazioni da dare al secondo turno per chi non ha votato al primo turno alle primarie. Continuiamo dalla posizione 9, se non sbaglio. Sì, dalla posizione 9. Numero 9, ero andato a Villa Certosa per abbattere Silvio, avendo saputo che voleva ricandidarsi. Esatto, perché di quel giorno la notizia è che Silvio Berlusconi intende annullare le primarie del PDL, quindi voleva ricandidarsi, e l'elettore medio del centrosinistra fa il viaggio per Arcore per accopparlo e quindi perde il primo turno. Penso che questa sia una posizione dignitosa per questa scusa. Posizione numero 8, ero in barca con D'Alema. Beh, D'Alema si sa, fan di barche, perché non essere invitati da lui in effetti, e quindi la posizione numero 7 se la becca tutta. Infatti era 8. 8. Sì. Vabbè, però anche la 7 si mette. Sì, anche la 7, Mentana non so cosa ne penserebbe. Non lo so, possiamo chiedere. Va bene, spariamo alla posizione numero 7 delle scuse, delle giustificazioni per andare a votare direttamente al ballottaggio delle primarie del PD. Abbiamo anche sono un marxista per Tabacci. Esatto, Tabacci si è riscoperto socialista, comunista, è nato sui social network questo tormentone, questo meme che sono i marxisti per Tabacci, come dimostrano una foto virale girando in internet nel segreto dell'urna. Renzi non ti vede, Tabacci sì. Quindi, piccola pausa, attenzione. Non so se avete visto su internet quel gruppo geniale che si chiama Il Terzo Segreto di Satira, che stanno facendo dei filmati stupendi, tipo che so, Natale in casa PD. Che è favoloso, io vi consiglio a tutti i quarti di andarlo a vedere. Tutti i quarti. Quindi se voi siete arrivati a qualunque competizione della vostra vita, quinti, anche primi, non potete vederlo. Soltanto i quarti. E che ne so, se voi siete una famiglia di 5 fratelli, soltanto il quarto potrà vedere questo video. Tutti gli altri. Una famiglia di 5 fratelli senza genitori. Esatto. Ovviamente. Solo questo. Questa è la regola, come quella delle prime delle posture. Andrea, leggi la scusa al sesto posto e direi che le ultime 5 ce le lasciamo per dopo. Esatto. Ero testimone di nozze ad un matrimonio gay. E voi direte, ma che scusa è? Perché i matrimoni gay non si celebrano in Italia, quindi eravate all'estero. La scusa regge benissimo. Esatto, quindi invece di dire che eravate all'estero, sottolineate il fatto che ancora in Italia non c'è qualcosa, una legge che regolamenti le coppie di fatto, figuriamoci i matrimoni gay. Esatto, continuiamo subito dopo con il nostro programma e ci speriamo un altro pezzo e poi direttamente alla pubblicità. E poi un altro pezzo. Sì, Andrea accoglie sempre tutto, ci vediamo dopo, ciao. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds, another cog in the murder machine. They said at the stick, you're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said I'll teenage a scare the living shit out of me. They could care less as long as I wanna bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll lead you alone, but not. Whoa, yeah. guarda, il testo è proprio uguale, Antonio. Sì, sì, sì. Ora, ora mi fai lo spelling di tutte le parole. Uguale, uguale. Va bene. C'è Gun, a un certo punto dice Gun, sì, pistola. A un certo punto. Va bene. A chi è che va bene? Va bene comunque, va bene insomma. Tutti, insomma, va bene. Questa puntata va bene. Sì, sempre. Salutiamo Eleonora che è venuta qui con la cipolla, serviva l'ingrediente per la ricetta di Tony. E come abbiamo anticipato nell'anteprima, abbiamo con noi in intervista Caterina dei Babel On Suite. Ciao Caterina. Ciao ragazzi. Come stai? Tutto bene. Tutto allora, bene. Oggi... Ti aspettavo. Ci aspettavi. Allora, oggi grande puntata di artisti siciliani in intervista, dopo Adriano Modica, anche Caterina dei Babel On Suite. Intanto, Caterina, dacci una curiosità su questo nome. È Babel On Suite, è ovviamente un gioco di parole con Babylon, però come mai la scelta di questo nome? Beh, intanto grazie per la pronuncia, perché di solito tutti pronunciano Babel, insomma c'è un po' di confusione. Babel On Suite. Scusami, è una rarità, perché Andrea normalmente riesce a essere dislessico anche per pronunciare il suo nome, quindi sei stata fortunatissima. Beh, in realtà il suo nome è nato, Babel da Babilonia, no? Tutti quanti sappiamo che è stata una città culturalmente molto eclettica, diciamo una città che ha avuto un grande fermento culturale, insomma sociale. E suite perché la suite è un po' diciamo la camera migliore, no? All'interno della quale abbiamo creato, diciamo i Babylon creano, quindi è un po' la camera, la suite di Babylon, la suite di Babilonia. Grandissimi. Allora, parlaci invece di questo tuo nuovo, di questo vostro nuovo album, il precedente EP che leggo prodotto tra l'altro da Lucio Dalla, con il quale avete condiviso il palco. No, il primo EP che è uscito nel 2009, sì, è Roulette, esatto, è stato prodotto da Lucio Dalla, sì. Grande esperienza ovviamente per questa grande persona che ahimè oggi non c'è più. Oggi invece noi abbiamo questo album ufficiale che è La Scatola, che è stato prodotto da un'ormai storica etichetta catanese che è la Viceversa Records, distribuito dalla EMI. Beh, diciamo che è un progetto abbastanza nuovo, sono 9 tracce. E all'interno di questo progetto hanno partecipato grandi artisti della musica catanese. Ci tengo a citarne uno perché, oltre ad essere un grande cantautore, è anche un nostro amico che è Cesare Basile. Ah, ok. E lui suona, si occupa di cosa? No, lui in realtà ci ha fatto un grande regalo, perché prima che uscisse il disco ha regalato a noi Babylon un brano, che è La Scatola, che successivamente poi ha dato anche il nome al nostro album. Esatto, infatti la curiosità era poi sul nome. Comunque ti avevo chiesto, parlaci di questo album e poi del primo EP, perché la curiosità insomma che era stato prodotto da Lucio Dalla era abbastanza forte, dato che insomma è un artista che ci ha lasciato da poco. Voi avete avuto la fortuna di conoscerlo, anzi appunto di condividere il palco con lui. Questo sì, disco di... Prego? No, stavo dicendo che abbiamo avuto questa grande fortuna di collaborare con lui nel 2009, perché lui organizzava ogni anno una manifestazione a Riposto che si chiamava Lucio Dalla in Fans, alla quale partecipavano grandi artisti, e quindi noi abbiamo avuto questa grande fortuna di parteciparvi e di condividere anche il palco con Mario Venuti, Max Gazzè, Le Gonouvelle Vogue, Le Vibrazioni. Sì, in realtà sì, questi sono stati concerti che abbiamo aperto. Ovviamente per noi grande soddisfazione. Insomma, tanto di cappello. Sì, sì, sono grandi soddisfazioni, sicuramente. Oggi ci troviamo quest'album, La Scatola, che è nato un po' attraverso varie vicissitudini, perché realmente diciamo che i file che oggi sono venuti fuori sotto forma di brani sono stati per tanto tempo custoditi veramente dentro degli hard disk. Hard disk che sono stati ballottati un po' indietro, perché è stato un anno un po' particolare per noi, perché alcuni del gruppo si sono trasferiti, chi ha fatto traslochi, chi ha cambiato studio, quindi diciamo che sono stati un po' sballottati qua e là, e alla fine sono venuti fuori da queste scatole, perché realmente erano proprio conservati nelle scatole, da cui è nato anche un po' il nome dell'album, insomma. Ma per caso il titolo della vostra canzone Vieni a trovare ad Amsterdam parla di questi viaggi dei componenti della band o non c'entra assolutamente niente? No, in realtà Vieni a trovare ad Amsterdam ad un primo ascolto sembra una vera e propria dichiarazione d'amore, che in qualche modo il Babylon, no, una dichiarazione d'amore rivolta a qualcuno. In realtà è una vera e propria dichiarazione d'amore che i Babylon fanno alla musica. È un po' che dirti, una volontà di creare qualcosa qui in Sicilia, perché ovviamente noi siamo catanesi, e riuscire, perché no, a portarla fuori. Quindi c'è un po' questa speranza di varcare la soglia, no? Quindi uscire anche un po' da, fuori dall'Italia. Diciamo che Amsterdam è un po' una città che abbiamo voluto così citare nel brano, perché è una città che comunque ci piace, ha una sua misticità, come Amsterdam potrebbe essere qualsiasi altra città. Ho capito. Senti, no, scusami, il mio conduttore ride perché c'è stato un tre ore di cellulare. Ma infatti non ridevo, cioè io ascoltavo tutto, però cercavo di non far sentire le interferenze di un telefonino. Di un telefonino, e cercavo mentre parlavi lui, Mischino, stava cercando Mischino, e poi Mischino, tra l'altro siamo siciliani tutti quanti, di trovare l'interferenza senza capire da dove provenisse, quindi poi alla fine scoppia a ridere, esatto, capendo che era lui stesso l'interferenza. No, allora, continuando invece con il vostro album, la canzone a cui sei più legata qual è? Beh, diciamo che in realtà una canzone in particolare non c'è, perché se posso essere sincera, diciamo che sono legata a tutte le canzoni, in quanto essendo un mio album, cioè un nostro album, non c'è una canzone in particolare. Sono legata a Spirito Divino perché è un brano che abbiamo fatto un anno e mezzo fa. E da questo brano poi abbiamo tirato fuori il nostro primo video, che oggi insomma gira un po' su YouTube. Mi piace tantissimo, mi rimetto ad Amsterdam. Voi, i brani mi piacciono tutti, devo essere sincera. Bene, allora noi l'ascolteremo sicuramente dopo l'intervista. Vieni a trovare ad Amsterdam. L'ultima domanda prima della solita progetti per il futuro, alla quale ti prego di rispondere senza insomma pensare che sia una domanda troppo brutta o troppo stupida. Quanto è difficile per una band siciliana emergere provenendo appunto da una regione come la Sicilia, in cui la musica, soprattutto la musica indie rock, la musica un po' più di nicchia, è meno ascoltata rispetto alle altre regioni? Ma guarda, io credo che non è che è difficile emergere perché siamo in Sicilia, è difficile emergere perché siamo in Sicilia, perché la Sicilia purtroppo ha delle distanze, cioè nel senso che... Le distanze fisiche, intendi? Catania Milano, io penso Catania Bologna, io penso Catania Firenze, dico vabbè dai, che ci vuole, un'ora di aereo e sono arrivata. Il problema per una band nasce proprio per questo, perché non è una singola persona, ma sono... Noi siamo in quattro, ma a volte sul palco siamo anche in sette, in otto, quindi capirai bene che spostarsi da un'isola con otto elementi e con annessi strumenti non è semplice. Esatto. Sicuramente il web aiuta, quindi. Cosa? Il web aiuta. Il web aiuta tantissimo, come aiutano tanto anche le radio, insomma la promozione credo sia fondamentale. Allora, grazie per questo assist. Va bene, allora io ti prego di rispondere all'ultima domanda, perché abbiamo il tempo veramente che stringe. Progetti per il futuro dei Babylon Suite? Progetti per il futuro? Stiamo lavorando con la nostra agenzia di booking, Rocket Light, per i prossimi live, quindi a breve partirà una tournée che toccherà alcune città d'Italia. Partiremo da Milano, poi faremo Firenze, Bologna, per poi ritornare insomma qui in Sicilia. E qui in Sicilia che tappe avete stabilito? Qua in Sicilia suoneremo a Palermo, suoneremo a Siracusa, Messina, settimana prossima, giorno 7 di dicembre, suoneremo ad Agrigento. Bene, allora diciamolo, dove suonerete ad Agrigento? Abbiamo un po' di date, sì. Ma dove ad Agrigento? Così chi ci ascolta da lì? Ah, ad Agrigento? Ti dico la verità, non mi ricordo il posto. Ah, vabbè. Non è un problema. Lo cercheremo subito. No, vabbè, tranquillo. Però, vabbè, sì. Per chiunque volesse seguirci, noi abbiamo un sito internet che è www.babylonsuite.com, quindi là diciamo che ci sono gli aggiornamenti delle nostre serate, dei nostri live, ci sono pure i brani. È una cosa importante, il disco è in distribuzione, o lo si può tranquillamente acquistare su iTunes, per chiunque voglia sentire Babylon e dire vediamo un po' chi sono questi, che ne so io. Va bene, allora scusami? Dico, incrociamo le dita. E incrociamo le dita, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, e allora direi che ci possiamo ascoltare. Sicuramente vienimi a trovare ad Amsterdam, che è piaciuta anche a noi, e quindi ti ringraziamo Caterina per questa intervista, in bocca al lupo e ciao. Ciao. Grazie a voi ragazzi, buon ciao. Lavoro. Ciao. Siamo andati, ci siamo allontanati troppo, non ho più rabbia per gridare. Prendo il mio sorriso come amore, che si offre, che arriva dal mare, per un applauso, un bicchiere di vino e un affitto da pagare. Tuo padre aveva uno strano cilindro e non tirava soltanto. sentirmi né viva né stanca, ma solo per sentirmi ancora. Trarisse tabacco ad ubriacarsi come un coglione. Tesoro, io posso darti la vita, ma dammi solo una buona ragione per non sentirmi né viva né stanca, ma solo per sentirmi al cuore. Allora ritorniamo subito con la diretta qui da Radio Panorama, l'onda in onda, e come vi abbiamo anticipato nel corso dell'anteprima abbiamo con noi il presidente del consiglio comunale di Termini Imerese, Stefano Vitale. Benvenuto Stefano e grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Buonasera, allora perché abbiamo chiamato qui Stefano? Perché insomma è da un po' di puntate, ci occupiamo anche dei temi di politica, diciamo politica non solo, ma anche di tematiche del territorio di Termini Imerese, e la novità insomma che tutti ormai sanno è quella che è stata azzerata la giunta settimane fa dal sindaco Burrafato, ed è stata proposta una nuova giunta per l'amministrazione di questa città, tutti assessori senza portafoglio. Io vorrei un commento, diciamo ormai non più a caldo, ma un commento da arbitro ragionato dal presidente del consiglio comunale su questa nuova giunta. Cosa ne pensi di questa nuova amministrazione, diciamo, di questo Burrafato bis? Sì, Burrafato bis, che arriva appunto a un anno e mezzo dalle elezioni e che vuole essere la risposta che Termini si aspettava da un po' di tempo, di cambio di assessori, che può servire appunto da scossa, come ha detto il sindaco stesso, e far capire a qualcuno che effettivamente la volontà del cambiamento c'è, e in questi mesi che ci separano dalle prossime elezioni si proverà con questi nuovi assessori a dare un volto nuovo alla città. È un termine grosso, un volto nuovo alla città, perché il tempo non è tantissimo, anche se io ritengo che in un anno e mezzo si possano fare parecchie cose. Io però devo da subito fare una premessa. A mio avviso, a differenza di quanti pensano che i precedenti assessori abbiano riportato risultati fallimentari, io voglio dire da subito che non sono gli assessori che hanno riportato risultati fallimentari, ma è il bilancio che ha riportato un risultato purtroppo mediocre. Ecco, io non lo definisco fallimentare, però a causa di un bilancio e di tagli enormi che ci sono stati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, abbiamo visto 8.000 sindaci sfilare tempo fa a Milano, credo, e protestare, perché i comuni non devono essere l'ultima ruota del carro per il governo nazionale e per il governo regionale, ma devono essere appunto il punto di riferimento di tutti i cittadini, e senza soldi purtroppo non si può amministrare. Quindi dici che magari il taglio dell'ICI ha anche influito su questo? Il taglio dell'ICI ha sicuramente influito, perché l'ICI era l'imposta più importante che il comune incassava, e quindi è venuto a mancare tantissimo ossigeno, i finanziamenti che sono venuti a mancare, i trasferimenti che sono venuti a mancare hanno influito notevolmente. Io voglio appunto dire, non per difesa, perché non hanno bisogno di essere difesi, ma che i precedenti assessori hanno avuto dei limiti non dettati dalle proprie capacità, ma sicuramente da tagli di bilancio. Io a loro faccio un grosso ringraziamento e mi auguro di rincontrarli nel prosieguo del cammino politico, perché ritengo che comunque ci abbiano messo l'anima in quello che hanno fatto, e in 3 anni e mezzo, chi più chi meno, hanno sicuramente impegnato il loro tempo in favore della comunità termitana. Senti, il dottore Pravatà ha rilasciato intervista a una TV locale, una web TV locale qui a Termini Imerese, elogiando due interventi, in particolare quello del consigliere Perdichizzi e quello del consigliere Gatto. Il consigliere Perdichizzi chiedeva al sindaco di ratificare il fallimento appunto di questi 3 anni e mezzo di amministrazione, visto appunto l'azzeramento della giunta. Tu cosa ti senti rispondere al dottore Pravatà, ovvero anche ai consiglieri che hanno posto queste questioni, posto che anche a questo ha risposto il sindaco, ma il presidente del consiglio cosa ne pensa? Sì, io ti dico cosa ne pensa Stefano Vitale, non il presidente del consiglio comunale, perché sai, esci dalla figura no, esco perché innanzitutto il dottore Pravatà è un mio carissimo amico e persona che io stimo e che rispetto e che va ascoltata per l'esperienza politica che ha maturato nel corso di questi decenni, perché è impegnato in politica da sempre ed è uno che sicuramente sa il fatto suo in tema di politica locale, avendo fatto già il sindaco e conoscendo bene la vita dell'amministrazione comunale. Il dottore Pravatà è però lontano dalla vita dell'amministrazione comunale ormai da parecchio tempo, per non dire da decenni, e quindi evidentemente gli è sfuggito qualche passaggio. Tuttavia ritengo che abbia ragione quando a sua volta dia ragione ai consiglieri Perdichizzi, Gatto o Sacco, che è stato il consigliere che io nell'ultimo consiglio comunale ho elogiato più di tutti, perché certe cose vanno dette, non vanno nascoste, e questo io l'ho ribadito anche al sindaco Burrafato, e in pubblico e in privato. Certe cose non vanno nascoste, che ci sia stata lentezza burocratica, e che sicuramente non è attribuibile agli assessori uscenti ma agli uffici, che agli uffici andava data una scossa, e mi auguro che i nuovi assessori diano una scossa agli uffici comunali, è sicuro, perché se l'ufficio a partire dal suo dirigente non dà l'impulso a determinati atti amministrativi che vanno a definire un procedimento amministrativo come una gara d'appalto, evidentemente i lavori non cominciano, evidentemente l'occupazione non può essere data a quei cittadini, a quei comitati disoccupati nei confronti dei quali io sono sempre molto vicino, ma non si possono dare risposte se effettivamente la burocrazia non fa il primo passo e anzi non accelera, perché è questo il momento in cui bisogna accelerare. Ecco, io proprio da qui vorrei partire per fare invece un augurio ai nuovi assessori, a cominciare dal vice sindaco che io stimo immensamente e che io ho immediatamente recepito con grande consenso, la Nicola Cascino. Di Nicola Cascino, ho altrettanta stima però di Michelangelo Lopresti, dell'ingegnere Michelangelo Lopresti, del dottor Vincenzo Fasone, che è un tecnico e che al bilancio ha sicuramente il suo giusto alloggio, e la dottoressa Moroso, che bene aveva fatto e bene continuerà a fare, perché anche ella è un tecnico e quindi va rispettata per il ruolo che ha e per gli impegni che ha già assunto. Dicevo, i nuovi assessori perché possono dare nuovo slancio all'attività amministrativa? Perché sicuramente hanno già dato un primo approccio diverso al rapporto che ci deve essere con il dirigente del loro settore. Sicuramente sono persone competenti, quindi da tecnici possono sicuramente dire una parola in più del dirigente nei confronti dei quali vanno a interloquire, e quindi è sicuramente quel tocco in più, ecco, fuori classe in più che ci serviva nell'amministrazione comunale, quella di avere un vice sindaco come Nicola Cascino, che è stato in consiglio comunale ma a termine è stimato a 360 gradi, come Michelangelo Presti, che è un tecnico sicuramente tra i più competenti che abbiamo a termine, e come Vincenzo Fasone, che ripeto ha sicuramente, grazie alla sua docenza universitaria così giovane e ricordo già docente universitario, sicuramente possono dare un'impronta diversa appunto all'amministrazione comunale. Va bene, allora abbiamo poco tempo, io presento anche Giulio Ustica, che abbiamo invitato come ti presento? Presidente delle... cosa sei? Avete fatto un comitato? Componente del forum delle associazioni. Forum delle associazioni. Prima di commentare questa nuova giunta, diciamo, chiedervi cosa vi aspettate per il futuro di questa città, vorrei insinuare una domanda. Ovviamente la nomina di nuovi assessori e l'azzeramento di una giunta è una mossa anche politica. L'unico assessore riconfermato è l'assessore Amoroso. Ovviamente io ho notato un piccolo cambiamento rispetto alla linea politica dell'assessore Amoroso, che dall'MPA è passata al PD. Tra l'altro venendo a votare anche alle primarie del PD la settimana scorsa. Non è che per caso questa riconferma, sempre volendo essere malpensati, è proprio per il passaggio dell'assessore al Partito Democratico o semplicemente per merito? Chiaramente il merito all'assessore, cioè noi non vogliamo toglierlo, è semplicemente una domanda un po' così insinuosa. è insidiosa. Per primo io, perché ho da dire da subito che gli assessori attuali, compresa la dottoressa Moroso, sono assolutamente slegati da partiti politici e da qualsivoglia appartenenza appunto a movimenti politici, e quindi non hanno sicuramente identificazione nei partiti, e quindi se la mossa doveva essere politica il sindaco Burafato ha sicuramente sbagliato. Se invece la mossa era tecnica, cioè dovevano essere individuati quattro tecnici che, come dire, metterli all'opera a servizio della città, e allora questa è stata la mossa giusta e in quella direzione è andata. La dottoressa Moroso si è votata alle primarie evidentemente perché, come me, ha ritenuto che che alle prossime elezioni voterà per il centrosinistra, e quindi ha voluto esprimere la sua opinione per quanto riguarda l'individuazione del leader del centrosinistra, che quasi sicuramente o presumibilmente andrà a fare il candidato premier. Quindi io non credo che essere andati a votare alle primarie significhi appartenere al PD o al SEL o a qualunque partito si voglia, ma significa avere già intenzione, e si può aver votato per partiti diversi, si può aver votato per il centrodestra, significa voler mostrare la propria intenzione di votare per il centro sinistra alle prossime elezioni, e quindi come dire, mettere la propria parola con il proprio voto per l'individuazione di chi sarà il leader del centrosinistra alle prossime elezioni. Io non credo che si sia schierata, tesserata al PD, come hai detto tu, o comunque tu hai detto voglio insinuare, io non lo so, però nessuno glielo vieta, e quindi è possibile che lei si vada a schierare in un partito, ma al momento è stata individuata in qualità di tecnico e quindi non ha assolutamente veste politica all'interno della giunta Burafato. Giulio, per quanto riguarda la scelta fatta dall'assessore Amoroso di passare al PD, ritengo che sia legittimo. Ciascuno di noi può scegliere di sposare un progetto politico se lo ritiene idoneo, se lo ritiene valido, per risolvere i problemi di una città, di una regione, di una nazione. Ritengo che la sua nomina, sia la sua riconferma, sia dovuta al fatto che lei ha ben operato nell'arco di questi 3 anni e mezzo, perché mi risulta essere uno degli assessori più apprezzati. Volevo invece aggiungere qualcosa a quanto detto dal presidente Vitale precedentemente, ovvero il fatto dell'azzeramento della giunta e della nomina di nuovi assessori, per quanto mi riguarda, è una presa d'atto da parte del sindaco Burafato dell'assoluto e palese fallimento del progetto che era nato sotto i migliori auspici, ma che evidentemente, ed è sotto gli occhi di tutti, non è andato a buon fine. Detto ciò, prendiamo atto del fatto che il signor sindaco Burafato si sia reso conto del fallimento del suo progetto e che abbia voluto, con un atto di umiltà, azzerare il tutto e ripartire. Ovviamente tutti noi ci auguriamo e crediamo che i nuovi assessori, le nuove personalità portate ad assumersi questa responsabilità in un momento di così grande difficoltà sappiano rilanciare la città. In merito ai tagli che diceva il presidente Vitale, beh, i tagli si sapeva che ci sarebbero stati, e è compito di un'amministrazione comunale anche programmare questo tipo di cose affinché non vi siano disservizi, e forse tagliare qualche fronzolo per garantire i servizi primari è proprio quello che un'amministrazione deve essere in grado di fare in tempo utile. Va bene, allora la pubblicità incombe, quindi restate con noi per le ultime battute finali e seguire soprattutto la nostra classifica sulle giustificazioni per le primarie, e quindi ci vediamo subito dopo, restate con noi. Sono le ore 19:58. Stai ascoltando L'Onda in Onda. siamo tornati qui in diretta, sempre dall'Onda in Onda. Abbiamo qui ospite il presidente del consiglio comunale di Termini, Stefano Vitale, e Giulio Ustica, che rappresenta l'opposizione. No, dico bene? No, no. Giulio Ustica rappresenta la voce di Termini. Rappresenta Giulio Ustica. Giulio Ustica rappresenta se stesso. È qui in veste di, io lo dimentico sempre, forum delle associazioni termitane. Sì, esatto. Okay, vedi, l'hai detto giusto. Ma noi dobbiamo proseguire, anzi proprio in presenza di una personalità politica, esatto, di Termini, dobbiamo proseguire con la classifica delle 10 delle 13 giustificazioni da dare domenica prossima per le votazioni del ballottaggio. Esatto, per chi non ha potuto votare al primo, esatto, turno, ovviamente è svantaggiato, serve la giustificazione per il secondo turno. Noi ne abbiamo già date un 8, bel po', e ora rimangono al quinto posto. Pensavo che Renzi fosse un testimonial del film di Pieraccioni, ascoltandolo e ridevo ancora non riuscendo a immaginarlo come candidato del PD. E questa è una giustificazione abbastanza valida, perché valida, insomma, chi sente la voce di Renzi senza guardarlo in faccia, sì, insomma, sì, un po' sembra, sì, sembra di, sì, dice, guarda, non sono venuto, mi dispiace, dice, allora, senti, volevo votare per lui, vediamo, sono andato al cinema invece. Al quarto posto è apparso circondato da un'aura celeste tinta di rosso, con in mano una falce e un martello, Berlinguer davanti a un seggio. Tutti ci siamo inginocchiati e nessuno ha votato. Questa, insomma, è un'altra, sì, giustificazione che, sì, potete dare magari in un'altra città dove c'era un, Bologna, po' più di confusione, sì, e nessuno ha visto questa esatto, grande inginocchiamento. Ci teniamo il podio per il podio per dopo. Ritorniamo intanto ai nostri ospiti. Allora, presidente, sempre sulle primarie, poi diamo velocemente la parola a Giulio Ustica, ci presenterà il regolamento di questo forum delle associazioni. Esulando quindi il discorso della nuova giunta, come le hai viste le primarie a Termini Imerese, posto che Bersani ha preso più del 50%, quindi al di sopra della media nazionale, e Vendola e Renzi sono arrivati quasi a pari merito, solo per 3 voti di scarto, con Renzi in vantaggio? Sì, innanzitutto ci tengo a precisare che Giulio Ustica non è l'opposizione al presidente, perché con Giulio spesso siamo d'accordissimo sui temi più importanti. Ovviamente spesso siamo in contrapposizione, ma non per motivi politici, ma soltanto sui, come dire, modi di pensare. Quindi quindi c'è assolutamente, non c'è opposizione. Io non parlo nella mia veste istituzionale, ma nella veste personale, ed è per questo che vi ringrazio dello scherzo con cui si dice grossa personalità. Io sono venuto soltanto a portare il mio piccolo contributo personale a questa radio, e per cui faccio intanto i complimenti a voi, perché è veramente una realtà importante già a Termini. Grazie, Presidente. Sulle primarie io voglio dire da subito che effettivamente non poteva che vincere Bersani, per un motivo molto semplice. È evidente che viene considerato il più concreto nell'ambito del centrosinistra, cioè la personalità, ora sì che è giusto usare questo termine, la personalità più forte che nel centrosinistra sicuramente mette d'accordo più persone. Io su Renzi non vorrei dilungarmi, però voglio solamente dire che effettivamente Renzi fa dell'età anagrafica il suo cavallo di battaglia, e io non sono d'accordo, nonostante i miei 36 anni, e che quindi mi ritengo assolutamente giovane, quindi se non più piccolo di Renzi. Io non penso proprio che l'età in politica sia fondamentale, le capacità non vengono individuate in base all'età, e quindi Renzi non ritengo che sia corretto che fondi tutta la sua, come dire, campagna elettorale sull'età anagrafica. Renzi è apparso sicuramente, per non essere stato eletto, per non essere stato il più votato, è apparso sicuramente più, come dire, presuntuosetto tra virgolette, perché evidentemente uno che arriva in un talk show serale e dice votate me che aggiusto l'Italia, evidentemente si è sopravvalutato da solo. Vendola invece è quello che guardavo con assoluta simpatia, perché avendo fatto bene in Puglia sarebbe stato un valido modello di, come dire, di propaganda poi a livello nazionale, e quindi un modello da imitare, perché Vendola, nonostante la Puglia sia una regione che abbia sempre votato per il centrodestra in prevalenza, si è distinto in particolar modo. Quindi Vendola comunque è quello di sinistra, come dire, più vera forse, e gli altri insomma hanno preso i voti di protesta. A Termini quindi l'hai vista, diciamo, abbastanza questo pareggio, come l'hai visto? Insomma, no, un segnale, sì, forte. Il pareggio è un segnale forte, evidentemente Renzi ha pescato soltanto nell'elettorato giovane, che pensa che i giovani possono cambiare il mondo. Io penso che il mondo lo possono cambiare le persone che hanno voglia di cambiarle, che siano giovani o anziani non ha assolutamente importanza. Vendola evidentemente sostenuto da un partito che a Termini c'è e si è fatto sentire, e quindi ha avuto il suo riscontro, differentemente da quanto è successo a livello nazionale, che la percentuale di Vendola è stata più bassa di quella di Renzi di parecchio. Prima di dare la parola a Giulio Ustica vorrei fare una piccolissima parentesi, diciamo, per portare la solidarietà alle persone che a Taranto oggi sono state travolte travolte dal tornado che tra l'altro ha colpito l'Ilva, e si dice che ci siano quattro operai morti, quindi insomma c'è un video scioccante di loro che fuggono da questa tromba d'aria come mai se n'erano visti. Esatto, vinto. Quindi va la nostra solidarietà agli operai dell'Ilva di Taranto. Giulio Usica, parlaci di questo tuo progetto velocemente, perché abbiamo veramente pochissimo tempo e poi dobbiamo concludere la nostra puntata. Sì, anzitutto terrei a precisare che più che membro del forum delle associazioni sono uno dei promotori, insieme ad Agostino Moscato, Damiano Giunta, Antonio Piritore e tanti altri, del forum delle associazioni, che allo stato attuale non esiste. Oggi abbiamo fatto la prima riunione, a cui purtroppo il sindaco non ha partecipato perché era fuori sede, ma hanno partecipato il neo assessore al bilancio Vincenzo Fasone e l'assessore alle politiche sociali Anna Moroso. Durante questa riunione abbiamo discusso su quali devono essere gli obiettivi di questo forum, cos'è che deve fare e soprattutto quali sono gli obiettivi che l'associazionismo termitano si deve porre. È stato presentato un documento che è redatto da Agostino Moscato, che appunto va nella direzione di diciamo di dare una linea guida al forum delle associazioni, e poi io ho redatto un regolamento che ritengo presenteremo in Consiglio Comunale, quindi anzi approfitto del fatto che c'è il Presidente del Consiglio Comunale per spiegarlo anche a lui, visto che ancora era top secret. Il regolamento consiste nel presentare la rendicontazione delle spese, ovvero quando un'associazione ottiene dei finanziamenti da parte dell'amministrazione comunale sarà obbligata, se questo regolamento viene ratificato dal Consiglio Comunale, a presentare rendicontazioni con le pezze d'appoggio, ovvero assegni, bonifici bancari e via dicendo, ad attenersi al piano al preventivo di spesa che aveva presentato. Quindi se si presenta un preventivo di spesa con determinate voci, poi dovranno essere rispettate, e in più alla trasparenza, perché tutto quello che verrà presentato in Consiglio Comunale nel regolamento è previsto che venga pubblicato su internet. Quindi questo regolamento permetterà ai cittadini termitani di sapere quanti soldi vengono dati alle associazioni e come vengono spese, e soprattutto quanto costa ogni manifestazione che viene realizzata, in maniera tale che ogni cittadino possa nel dettaglio esattamente nel dettaglio come vengono spesi i soldi, dove vanno a finire, da chi vengono spesi, a chi vanno e via dicendo. Questo penso sia un atto dovuto, soprattutto nel periodo in cui ci troviamo adesso, dove scandali per mancanza di rendicontazione ne arrivano uno al giorno, e credo che sia un atto di trasparenza e di correttezza nei confronti dei cittadini che sono chiamati a compiere sacrifici. Va bene, allora finiamo questa parentesi, possiamo dirlo, di servizio pubblico che abbiamo fatto nell'intermezzo del nostro programma, un po' anche più se cazzone, non c'era Santoro, anche se non c'era Santoro, lui sta sempre lì alla 7, non se ne vuole andare, sempre nel suo studio rosso con le gru. Va bene, ci ascoltiamo il prossimo pezzo e poi mi raccomando, fermi tutti perché c'è la nostra rubrica dei film brutti con Marco. Yeah. I don't want you. take up to you. Allora, ritorniamo sempre qui con l'Onda in Onda da Radio Panorama. Bene, ringraziamo intanto i nostri ospiti che sono stati qui con noi, il Presidente del Consiglio del Comune di Termini Imerese, Stefano Vitale, grazie per il tuo intervento. Stefano, se vuoi dire l'ultima cosa, velocissimo. Sì, assolutamente, io intanto vi ringrazio enormemente dell'invito che mi avete fatto e spero che mi invitiate nuovamente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, perché mi ha fatto molto piacere venire a dire finalmente in radio a tanti amici quello che penso, quello che si può fare per questa città, e spero di avere altro spazio in questa radio. Per ultimo dico brevemente sul punto che ha proposto Giulio Usti, che mi vede assolutamente favorevole, perché mi sembra una cosa normale, ecco, non straordinaria, quello di poter rendicontare spese che si sono effettuate con fondi pubblici, quello quindi utilizzare fondi pubblici e poi rendicontare al pubblico come vengono spesi, mi sembra una cosa giusta e quindi una cosa che va sostenuta, e va un plauso a chi ha fatto rilevare che questo fino ad ora non si è fatto. Perfetto, allora il Presidente del Consiglio sposa l'iniziativa. Giulio, l'ultimo saluto e così continuiamo la nostra puntata, e abbiamo Marco al telefono che ci aspetta. Ringrazio te, Antonio, tutti gli ascoltatori, il Presidente Vitale che ci ha dato disponibilità, e spero di potervi venire a trovare il più presto possibile. Ciao a tutti e grazie. Grazie Giulio. Grazie a voi. Grazie. Allora, a voi. Prima di ricordarvi che abbiamo, no, prima di ricordarvi, ricordandovi che abbiamo la nostra classifica sulle giustificazioni per presentare al secondo turno delle primarie per votare alle primarie del centro-sinistra. Direi che è il momento di spararci. Direi che è il momento di spararci la sigla dei film brutti. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E diamo il benvenuto anche per questo mercoledì a Marco. Ciao Marco! Ciao grandissimi, autopunizione alla grande stasera. Sì, grandissima, sì, autopunizione, sì. Noi abbiamo già anticipato il film Facebook. Sì, e sì, diciamo, sì, nell'anteprima in radio c'è scappato il titolo. Ma ridallo tu, dici cosa vedremo oggi. Il terribile Skeleton Man. Madonna. Io ho già paura. Ma tutto il titolo è il terribile Skeleton no, Man? No. È una, diciamo, Skeleton Man. No, perché in effetti, parlando di film brutti, te l'aspetti un titolo, il terribile Skeleton poteva Man. Poteva essere. Sembra, in realtà, sì, infatti, è un aggettivo che hai aggiunto tu per sottolineare la bellezza di quest'opera. Esattamente, sì. È un film da sconsigliare sicuramente ai neofiti dell'autopunizione, perché bisogna avere un po', diciamo, di esperienza. Quindi solo ai nostri ascoltatori più duri, più incalliti. Esattamente. Skeleton Man è uno di questi film che, diciamo, si colloca nel mondo dei direct to video, queste produzioni horror veramente tirate via, che poi vanno a finire nei cestoni degli ipermercati, no? Quelli che poi troviamo a 1 euro, a 2 euro, o che pur ti toglie essere di ritorno, te li regalano. È un film completamente sconclusionato, non esiste una linea, non esiste una trama, esistono solo delle scene che vedono come protagonista questo scheletro con tanto di maschera di plastica, mantello e spada anche quella di plastica, che imperversa in un bosco uccidendo chiunque decida di Interporsi tra lui e il suo cammino, sì, esatto. Per un qualsiasi motivo nel bosco il tale viene immediatamente elevato dal mondo. Ma il motivo qual è? Non c'è? Il motivo non c'è, fa diciamo riferimento ad una scoperta di una tomba, ma senza tanta convinzione. Non c'è motivo in realtà, c'è Skeleton Man. Così, di uno che gli andava di farlo, non si sono concentrati più di tanto sulla sceneggiatura. Perché concentrarsi? Questa entità appunto scheletrica che viaggia a cavallo, tra l'altro poi il cavallo cambia sempre, una volta è marrone, una volta è nero, insomma fa anche il mantello di questo mostro cambia a seconda di quello che c'era un po' a disposizione. E chiaramente abbiamo il solito gruppo, il solito manipolo di soldati accompagnati anche da quattro ragazze tipo Winx, no? Ognuna ha la sua caratteristica Winx, sì. Del tutto poi inutile ai fini della storia, sì. Esattamente, e chiaramente vengono uccisi a uno a uno, perché ucciderli tutti insieme sarebbe stato troppo, diciamo, riduttivo, insomma, per un personaggio come Skeleton Man. Ma vuoi che non si prenda, diciamo, la briga di farli fuori uno per uno, no. Tra l'altro sempre con questa capacità non ben precisata di comparire alle spalle, cioè, diciamo, si fa vedere davanti, tutti lo rincorrono, poi lui in realtà è dietro e li trafigge inesorabilmente, gli stacca la testa. Cioè, per chi non avesse mai seguito la rubrica dei film brutti curata appunto da Marco qui per Radio Panorama in esclusiva nazionale, tutto quello che state ascoltando non è un'invenzione, cioè è un film per cui realmente qualcuno, anche se pochi, ha uscito dei soldi, per cui qualcuno è stato dietro una macchina da presa, e per chi è stato davanti alla macchina da presa, cioè, per chi l'ha guardato, se l'ha comprato, sì, per voi che lo vedrete. Ma questo è proprio per l'autopunizione. Tutto dolorosamente vero, il terribile Skeleton. Senti, con cosa accompagniamo come cibarie, diciamo, la visione di questo capolavoro? Io lo abbinerei al Trolli Jojo. Il Trolli Jojo, che è una caramella, sapete, le Trolli è questa marca, diciamo, specializzata in gommosità varie, e questo è lo snack più duro di tutti, proprio è una gomma, che è una caramella gommosa che non si lascia mangiare con facilità. Quelle da che ti fanno male i denti. Esattamente, bisogna proprio impegnarsi, come ci si deve impegnare per riuscire ad arrivare in fondo alla visione di Skeleton Man, così bisogna impegnarsi per masticare il Trolli Jojo e assaporarne proprio le varie connotazioni al palato. Le varie proprietà organolettiche. Il nostro regista ha una domanda per te. No, non una domanda, è stata un'osservazione. Oltre a scoprire i film più brutti proprio che esistono al mondo, noi scoprendo anche nuove merendine. Nuove merendine da accompagnare. L'altra volta cos'era? Il filo elettrico rosso, quello incredibile. Sì. Perché l'autopunizione non è soltanto nel vedere il film brutto, ma anche nel vederlo soffrendo. Certo. Senti Marco, noi ovviamente ricordiamo sempre insieme a te il grande appuntamento del 20 dicembre, ormai manca meno di un mese, alle ore 22 noi qui faremo una puntata speciale aspettando la fine del mondo, la mezzanotte, inizieremo intorno alle 22 e avremo una carrellata di film brutti durante la serata. Noi ti ringraziamo come sempre per essere stato qui ai telefoni di Radio Panorama, dell'Onda in Onda. Grazie da me, da Andrea e da Alessandro, e alla prossima. E adesso, per restare lì in tema, ascoltiamoci questo pezzo che si chiama Tensione Evolutiva. Giovanotti. Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene. Pioggia, vento e sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E sangue nelle vene, sangue nelle vene, e una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi, e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno. Con i demoni interiori sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva. Pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi, e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora di più. Pioggia, vento, sangue nelle vene. Troppo bella questa canzone. Sì, sì, sì. Troppo bella, guarda. Aspetta, ma sta passando lui, c'è Lorenzo. No, io non lo voglio sentire. Mi chiamo Dua Notti, ho fatto il train, non vado mai a dormire più del 6. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Altro ciao Lorenzo. Giovanotti con un qualcosa in bocca, sta mangiando. Comunque il padrino. Voterò Renzi. Lo sappiamo. Lui rottama, rottama, rottama. Perché tu hai detto che piace anche a te rottamarti ogni sì, tanto. Sì, ogni disco mio rottamo sempre. Divento deficiente. Secondo ma me gliela stai sempre buttando un po' a Renzi, perché non è che i tuoi ultimi dischi siano proprio bellissimi. Sì, ma l'ho venduto un sacco. Vabbè, ma un po' perché Give me five. Vabbè, quelli della notte. Lorenzo, sì, visto che abbiamo parlato di classifica, resta con noi, ma fai avvicinare Antonio il microfono, perché dobbiamo tornare a parlare della nostra classifica per le giustificazioni al secondo turno. Te lo chiamo. Sì, chiamamelo. Ma è un testa di cazzo, ogni cosa che deve dire deve rappare. Comunque, ma allora andiamo subito al podio. Il rullo di tamburi, se ce l'hai. Non ce l'hai. Non ce l'abbiamo il rullo di tamburi? Niente. Il rullo di tamburi, niente. Niente il rullo di tamburi, vabbè. Iniziamo col nostro podio. Allora, per allora le... io direi un applauso per ognuna delle tre prime tre posizioni. Ricordiamolo, posizioni classifica sulle posizioni, vabbè, sulle giustificazioni, sulle posizioni del Kama Sutra, al numero 69 abbiamo la conosciamo tutti. No, posizione numero 3 per le giustificazioni da dare al seggio elettorale. Così, non l'ho ancora detta, però intanto la gente qui, i soliti 22, applaudono. Alla posizione numero 3 delle giustificazioni da dare al seggio elettorale questa domenica, quando si deciderà chi sarà il candidato premier del PD, 3, legato e imbavagliato, dopo una serata a sadomaso non ho saputo sciogliermi. Eh vabbè, può capitare, è una cosa che insomma, se fate vedere i segni dei polsi, no, con il, come si chiamano quelle cose che vengono, tu che sei medico? Maniglie, no, i segni, è chimosi, dice Giorgio. Ah, dietro. Lui diceva i segni dopo, pensavo che volevi sapere come si erano formate, no, qual era la causa, lei è chimosi. Giorgio sì, è sempre preparato. Beh, Giorgio è il vero medico qui di turno. Andiamo al secondo posto, sapevo già come sarebbe finita, ho preferito stare a casa piuttosto che sprecare chilometri e benzina in automobile per due viaggi. E qui potete giocarvela sul politico, dire sì, tanto si sapeva che se la sarebbero giocati loro due. Io vado direttamente, io volevo andare direttamente al secondo turno. Peccato vabbè, che non c'è il rullo di tamburi. Lo possiamo fare noi live? No, non fa. Al primo posto, ragazzi, le hanno organizzate a mia insaputa. E con questo abbiamo concluso la nostra classifica. Sì, la classificona, la classificona. Nelle giustificazioni voi potete dirlo, ma era mia insaputa. Ormai è la scusa che vale sì, un po' infatti, per tutto. Infatti, tu potete... magari volevi votare, però in un'altra domenica. Esatto. Allora invece siamo permessi di organizzare adesso. Allora, siamo al momento dei saluti. Intanto ringraziamo chi ci ha seguito per tutta la puntata, chi per la prima volta, chi tra gli ascoltatori storici. Quindi salutiamo Katia da Palermo, Giuseppe, anche lui da Palermo. E... salute Salutiamo mia mamma. Salutiamo la mamma di Montemagno, anche lei ci ha ascoltato. Salutiamo anche la signorina, mi suggerisce Giorgio. La signorina, chi dobbiamo salutare? Ricordiamo Agnese e anche Cristina con l'H. Cristina con l'H. L'H. Dove è l'H? Ma dov'è l'H in Cristina? È un'amica di Cristina. A metà. Decidete voi. Dove trovate posto, mettete un H. Salutiamo anche Serena che ci ha ascoltato. E ci scusiamo che i nostri ascoltatori, se potete, è stato un pochettino più lenta per appunto la parte di servizio pubblico. L'abbiamo dovuto fare. Era doveroso e soprattutto interessante, secondo il mio punto di vista. Continuate a seguirci mercoledì prossimo, una puntata leggermente più scoppiettante. Sì, vabbè, perché non ci sarà il servizio pubblico, ma noi siamo sempre i soliti coglioni. Salutiamo anche Enrica e Amelia, mi ricordano. Insomma, noi vi ringraziamo di averci seguiti. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Lui era Andrea. Lui era Antonio. E di là c'era anche Brumba. Ciao. Ciao. These memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of swallowing me whole, yeah. I have finally seen the light, and I have finally realized what you mean. Now I need to know, is this real love, or is it just madness keeping us afloat? But when I look back, crazy fights we had, it's like some